Facendo un passo indietro e tornando a quella prima serata in casa della principessa, andai dunque a salutarla perché suo cugino e sua cugina mi riaccompagnavano a casa e avevano molta fretta. Il signor di Grammont, tuttavia, voleva salutare anche suo fratello. Poiché Madame de Sourgy aveva fatto in tempo nel vano d'una porta a raccontare al duca che Charlot era stato incantevole con lei e i suoi figli, questa grande gentilezza del fratello, la prima del genere che ne avesse mai ricevuta, commosse profondamente Bazin e risvegliò in lui sentimenti familiari sempre pronti a destarsi. Mentre salutavamo la principessa, egli tenne a esprimere a Charlot, pur senza ringraziarlo esplicitamente, la propria tenerezza, o perché davvero faticasse a contenerla, o per far presente al barone che un'azione del genere di quella da lui appena compiuta non passava inosservata agli occhi d'un fratello, così come, al fine di creare, per il futuro salutare associazione di ricordi, si dà dello zucchero a un cane che ha eseguito bene un esercizio. «E così, fratellino», disse il duca fermando il signor di Charlot e prendendolo affettuosamente a braccetto, «si passa davanti al fratello maggiore senza nemmeno dirgli buongiorno. Non ti vedo più, Memè, e non sai quanto mi manchi. Cercando delle vecchie lettere, ne ho trovate giusto alcune della povera mamma, tutte così piene di tenerezza per te». «Grazie, Bazin», rispose Charlot con voce alterata, già che non poteva sentir parlare della madre senza commuoversi. «Dovresti permettermi di farti sistemare un appartamento a Grammont», riprese il duca. «È bello vedere i due fratelli così affettuosi l'uno con l'altro», disse la principessa a Orient. «Ah, se è per questo, non credo che se ne trovino molti di fratelli come loro. Vi inviterò insieme a lui», mi promise. «Non avete problemi, vero?» «Ma cosa avranno mai da dirsi?» aggiunse con un accento di inquietudine, dato che le parole di quel dialogo le giungevano frammentariamente. Aveva sempre provato una punta di gelosia per il piacere che il signor di Grammont traeva dai suoi colloqui col fratello su un passato rispetto al quale teneva la moglie un po' a distanza. Si accorgeva che quando stavano bene così, l'uno accanto all'altro, e lei, non riuscendo a frenare la sua impaziente curiosità, li raggiungeva, il suo arrivo non li rallegrava. Ma quella sera, alla gelosia abituale, se ne aggiungeva un'altra. Infatti, se Madame de Sourgy aveva riferito al duca la cortesia usatale dal fratello perché potesse ringraziarlo, qualche devota amica della coppia Grammont aveva ritenuto nel frattempo di dover avvertire la duchessa che l'amante del marito era stata vista in fitta conversazione con suo cognato. E ora Madame de Grammont se ne struggeva. «Ricordi come eravamo felici un tempo a Grammont?» ricominciò il duca rivolto al signor di Charlot. «Se tu venissi qualche volta d'estate, riprenderemo la bella vita d'allora. Il vecchio padre Courvaux, te lo ricordi?» «Perché Pascal è inquietante? Perché è inquieto», compitò Charlot come se stesse ancora rispondendo al suo professore. «E perché Pascal è inquieto? Perché è inquietante. Molto bene, sarete promosso, avrete certamente una menzione e la signora duchessa vi regalerà un dizionario cinese». «Perché ti ricordi, Bazin? Allora, Bazin, avevo la mania del cinese, se me ne ricordo, Memè. E quella vecchia porcellana che t'aveva portata Hervé de Saint-Denis? Mi sembra ancora di vederla. Minacciavi d'andare a vivere per sempre in Cina, tanto t'eri innamorato di quel paese. Ti piaceva già andartene a zonzo, eh? Eri un tipo davvero speciale. Si può dire che tu non abbia mai avuto i gusti di tutti». Ma appena pronunciate queste parole, il duca diventò, come si suol dire, di brace, già che conosceva, se non i costumi, perlomeno la reputazione del fratello. Siccome non gliene parlava mai, era tanto più imbarazzato d'aver detto qualcosa che potesse dare l'impressione d'alludervi e ancor più d'esserne parso imbarazzato. Dopo un istante di silenzio, «Chissà», aggiunse per cancellare le ultime parole, «chissà che tu non sia stato innamorato d'una cinese, prima di amare tante bianche e di affascinarle, se devo giudicare da una certa signora alla quale hai fatto un gran piacere stasera, intrattenendoti con lei. L'hai deliziata. Il duca s'era ripromesso di non parlare di Madame de Sourgy, ma nello scompiglio in cui la gaffe appena fatta aveva gettato le sue idee, s'era aggrappato alla più vicina, quella che per l'appunto non avrebbe dovuto figurare nel colloquio, pur avendolo motivato. Ma Charlot aveva notato il rossore del fratello. E come i colpevoli che non vogliono mostrarsi confusi se si parla davanti a loro del delitto che si ritiene non abbiano commesso e pensano di dover prolungare una conversazione pericolosa? «Ne sono felice», rispose, «ma vorrei tornare sulla tua frase precedente, che mi sembra profondamente vera. Dicevi che non ho mai avuto le idee di tutti. Non hai detto le idee, hai detto i gusti». Verissimo. Non ho mai avuto in nessun campo i gusti di tutti. Verissimo. Dicevi che avevo dei gusti speciali? Ma no, protestò il duca, che in effetti non aveva detto precisamente quelle parole e forse non credeva, per suo fratello, alla realtà di ciò che esse designavano. E poi poteva reputarsi in diritto di tormentarlo per delle singolarità che in ogni caso erano rimaste abbastanza incerte o segrete da non nuocere affatto all'impareggiabile posizione del signor di Charlot. Ma c'è di più. Intuendo che il prestigio del fratello si sarebbe messo al servizio delle sue amanti, il duca si diceva che questo meritava senz'altro d'essere ricambiato con qualche atteggiamento compiacente. Se in quel momento fosse venuta a conoscenza di qualche relazione speciale del fratello, il signor di Gourmont, nella speranza di poter fruire dell'appoggio del barone, speranza a cui si univa il più ricordo dei tempi andati, ci sarebbe passato sopra, chiudendo gli occhi e all'occorrenza dando una mano. «Insomma, Bazin, buonasera, Palamed», intervenne la duchessa che non ce la faceva più, morsa dalla rabbia e dalla curiosità. «Se avete deciso di passare la notte qui, tanto vale che ci fermiamo a cena. È mezz'ora che ci tenete in piedi, Marie e me». Dopo una significativa stretta di mano, il duca si staccò dal fratello e scendemmo tutti e tre l'immensa scalinata del palazzo della principessa. Da entrambi i lati, sui gradini più alti, sostavano qua e là coppie in attesa della loro carrozza. Sulla sinistra della scala, la duchessa se ne stava dritta, isolata fra il marito e me, già avvolta nel suo mantello alla tiepolo, chiuso al collo dal fermaglio di rubini, divorata con gli occhi da donne e uomini che cercavano di carpire il segreto della sua eleganza e della sua bellezza. Madame de Gaillardon, che aspettava la sua carrozza allo stesso livello della scala, ma all'estremità opposta, e aveva perso da tempo ogni speranza di ricevere un giorno la visita della cugina, le dava le spalle per far credere di non averla vista e soprattutto per non offrire la prova che la duchessa non la salutava. Madame de Gaillardon era di pessimo umore perché alcuni signori che erano con lei avevano pensato bene di parlarle di Orian. «Non ci tengo affatto a incontrarla», aveva ribattuto. «Del resto l'ho vista un attimo fa. Sta cominciando a invecchiare. Pare che non sappia farsene una ragione. Lo dice anche Bazin. E diamine, la capisco benissimo. È tutt'altro che intelligente, ha un carattere pestifero ed è anche una gran maleducata. Per cui si rende conto che quando non sarà più bella non le resterà proprio niente». M'ero infilato il soprabito, suscitando, mentre scendevamo le scale, il biasimo del signor di Gourmand, che temeva le infreddature e trovava che facesse troppo caldo. E la generazione di aristocratici passata, più o meno, per le mani di Monsignor Dupanloup, parla, eccettuati i Castellan, un così cattivo francese che il duca espresse il suo pensiero nei seguenti termini. «È meglio non coprirsi prima di uscire all'aperto, almeno in linea di principio». Rivedo tutta la scena. Rivedo, a meno che non lo situi per errore su quella scalinata, ritratto staccato dalla sua cornice, il principe di Sagan, per il quale quella dovette essere l'ultima serata mondana, togliersi il cappello per presentare i suoi omaggi alla duchessa, imponendo con la mano guantata di bianco, che riprendeva il bianco della gardenia all'occhiello, una così ampia rivoluzione al suo cilindro da lasciar meravigliati che non si trattasse d'un feltro piumato dell'Ancien Régime, di cui quel gran signore riproduceva fedelmente nel proprio volto non pochi volti ancestrali. Rimase solo per brevi istanti accanto a lei, ma il suo atteggiamento bastò ugualmente a comporre tutto un quadro vivente e quasi una scena storica. D'altronde, poiché morì poco dopo, e da vivo l'avevo solo intravisto, egli è diventato a tal punto per me un personaggio della storia mondana perlomeno, che mi accade di stupirmi al pensiero che una donna e un uomo di mia conoscenza siano, rispettivamente, sua sorella e suo nipote. Mentre scendevamo la scalinata, la stava salendo con un'aria affaticata che le donava, una donna, la quale dimostrava una quarantina d'anni, pur avendone di più. Era la principessa d'Auvillé, che era figlia naturale, a quanto si diceva, del duca di Parma e aveva, nella dolce scansione della voce, un vago accento austriaco. Incedeva, alta e un pochina, in un vestito di seta bianca a fiori, lasciando che il seno delizioso battesse, palpitante e ansimante, attraverso un pettorale di diamanti e zaffiri. Scuotendo la testa come una giumenta regale infastidita da una cavezza di perle inestimabilmente preziosa e troppo greve, posava qua e là i suoi dolci, incantevoli sguardi, d'un azzurro che si faceva, cominciando a sbiadire, ancora più carezzevole, indirizzando alla maggior parte degli invitati che stavano andandosene un amichevole cenno del capo. «Bell'ora per arrivare, Paulette», le disse la duchessa. «Ah, sapeste quanto mi dispiace, ma non mi è stato materialmente possibile», rispose la principessa d'Orvillé, che aveva preso dalla duchessa di Gaumont questo caratteristico frasario, ma di suo vi aggiungeva la naturale dolcezza e il tono di sincerità suggerito dall'energia di un accento lontanamente teutonico in una voce così tenera. Sembrava che alludesse a complicazioni esistenziali troppo lunghe da spiegare e non volgarmente ai numerosi ricevimenti da cui era reduce. Ma non erano stati questi a farla arrivare così tardi, poiché il principe di Guermand aveva a lungo proibito alla moglie di riceverla. Madame d'Orvillé, quando il divieto fu revocato, si limitò in risposta agli inviti a deporre il suo biglietto da visita per non suscitare l'impressione d'esserne avida. Dopo 2 o 3 anni di questa pratica, cominciò a presentarsi di persona, ma molto tardi, come uscendo da teatro. In questo modo risultava in apparenza che lei non fosse per niente interessata al ricevimento, né a farvisi vedere, ma che venisse semplicemente a fare una visita al principe e alla principessa, solo per loro, per simpatia, quando, andati via 3/4 degli invitati, avrebbe potuto goderseli più tranquillamente. «Oyanne è caduta ben in basso», borbottò Madame de Gaillardon. «Non capisco come Bazin le consenta di rivolgere la parola a Madame d'Orvillé. Il signor di Gaillardon non me l'avrebbe certo permesso. Quanto a me, avevo riconosciuto in Madame d'Orvillé la donna che nelle vicinanze di Palazzo Gaumont mi lanciava lunghe occhiate languide, si voltava, si fermava davanti alle vetrine dei negozi. Madame de Gaumont mi presentò, Madame d'Orvillé fu incantevole, né troppo gentile, né sostenuta. Mi guardava come guardava tutti, con i suoi occhi dolci. Ma non mi capitò più di ricevere da lei, incontrandola, una sola di quelle occhiate invitanti con le quali sembrava offrire se stessa. Vi sono sguardi particolari da cui si ha l'impressione d'essere riconosciuti, che un giovane riceve da certe donne e da certi uomini solo finché questi non lo conoscono e ignorano la sua amicizia con persone cui sono a loro volta legati. Fu annunciato che la carrozza era pronta. Madame de Gaumont raccolse la sua gonna rossa come per scendere la scala e salire sulla vettura, ma cedendo forse a un rimorso o al desiderio di compiacere, soprattutto d'approfittare della brevità che l'impossibilità materiale di prolungarlo imponeva a un atto così noioso, si girò verso Madame de Gaillardon e, come se l'avesse vista solo in quell'istante, folgorata da un'ispirazione, prima di scendere, percorse il gradino in tutta la sua lunghezza finché, raggiunta la sua estasiata cugina, le tese la mano. «Da quanto tempo?» disse la duchessa, e per non dover sviluppare tutto ciò che tale formula avrebbe implicato in termini di rimpianti e legittime scuse, si volse con espressione sgomenta verso il duca, il quale, in effetti, sceso con me sino alla carrozza, tempestava vedendo che la moglie aveva deviato verso Madame de Gaillardon e interrompeva così la circolazione delle altre vetture. «Oriane è pur sempre uno splendore», affermò Madame de Gaillardon. «Mi fanno ridere quando raccontano che tra noi c'è freddezza. Possiamo restare degli anni senza vederci per ragioni nelle quali non siamo certo tenute a coinvolgere gli estranei. Ma abbiamo troppi ricordi in comune per poterci mai separare, e lei sa perfettamente in fondo di volermi più bene che a tanta gente che vede ogni giorno ma non è del suo sangue». Madame de Gaillardon era come quegli innamorati respinti quali vogliono a tutti i costi farci credere d'essere più amati degli uomini che la loro bella preferisce. E, con gli elogi prodigati senza curarsi della contraddizione rispetto alle parole di poco prima su Madame de Gaillardon, fornì indirettamente la prova che la duchessa conosceva a fondo le massime cui deve ispirarsi nella sua carriera una grande donna di mondo, la quale, nel momento stesso in cui la sua più splendida toilette eccita, di pari passo con l'ammirazione anche l'invidia, deve, per disarmare quest'ultima, saper attraversare l'intera larghezza d'una scala. «State attenta almeno a non inzupparvi le scarpe!» Era caduto un breve acquazzone, disse il duca, ancora furioso per la forzata attesa.